Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Sulle pagine del Corriere della Sera, Vittorio Grevi commenta la decisione del governo francese di negare l'estradizione all'ex brigatista rossa Marina Petrella. La notizia della decisione da parte del presidente francese Sarkozy di rifiutare l'estradizione della terrorista Marina Petrella, dopo che la richiesta italiana già era stata accolta all'inizio di giugno, sebbene la consegna fosse stata differita in attesa dell'esito di un ricorso amministrativo, non è di quelle che incoraggiano a ben sperare nel futuro dei rapporti di cooperazione giudiziaria tra i due paesi, soprattutto per quanto riguarda i condannati per delitti di terrorismo. La decisione appare formalmente ineccepibile, in quanto radicata su una clausola, o più specificamente su una riserva, di sapore umanitario interna alla Convenzione Europea di Estradizione, sulla base della quale è consentito al governo francese di rifiutare l'estradizione quando potrebbero derivarne conseguenze di gravità eccezionale per le condizioni di salute della persona da estradare. Se non che è chiaro che dietro lo schermo di un argomento del genere affiorano ben più significative valutazioni di natura politica nei rapporti italo-francesi in questo delicato settore. E ciò anche prescindendo dalla poco simpatica sensazione prodotta dalle notizie, ampiamente pubblicizzate, circa l'influenza che avrebbero esercitato sulla scelta del presidente francese, la sua attuale consorte italiana e la sorella di quest'ultima. La verità è che, sullo sfondo della decisione di Sarkozy, si avverte ben distinta l'eco delle polemiche che, all'inizio dell'estate, avevano accompagnato il provvedimento di estradizione, firmato dal primo ministro François Fillon, nei confronti di Marina Petrella, presso una certa elegante sinistra francese, tanto elegante quanto disinformata, ancora nostalgica dei tempi in cui la improvvida dottrina Mitterrand aveva assicurato un comodo rifugio oltre Alpe a numerosi terroristi italiani, molti dei quali condannati per delitti anche di sangue. A queste polemiche Sarkozy aveva dapprima cercato di rispondere attraverso un maldestro tentativo volto a sollecitare, vantando un'intesa col presidente Berlusconi, la concessione della grazia in Italia alla stessa Petrella, ciò che aveva provocato una nota di puntuali precisazioni da parte del Quirinale. Poi era giunto il provvedimento di ricovero ospedaliero, richiesto dalla Procura Generale di Versailles, ma sempre all'interno della procedura di estradizione in corso. Adesso invece l'improvvisa retromarcia, con la revoca del provvedimento disposto a giugno. Il comunicato emesso al riguardo dall'Eliseo pone l'accento sul carattere individuale di questa decisione di rifiuto dell'estradizione, dovuta esclusivamente alla situazione sanitaria di Marina Petrella, e anzi si sforza di sottolineare che essa non attenua l'impegno della Francia nella lotta contro il terrorismo, nella sua cooperazione con le altre democrazie in tale ambito. Tuttavia, al di là delle belle parole, è innegabile che un rifiuto del genere assuma un forte connotato politico e ideologico, anche perché le autorità francesi non possono ignorare l'ampiezza delle garanzie e dei benefici offerti dalla legge penale e penitenziaria italiana, fino alla misura del rinvio dell'esecuzione della pena a favore dei condannati in gravi condizioni di salute, ivi compresi i condannati all'ergastolo, qual è Marina Petrella. Purtroppo bisogna riconoscere che la decisione di Sarkozy riflette una non sopita ambizione della Francia di essere terra di asilo a tutela non solo delle vittime di regimi autoritari, ma anche di latitanti già condannati per gravi delitti di terrorismo a seguito di un regolare processo, come nel caso di Marina Petrella. Un'ambizione che preoccupa e indigna, specialmente tra democrazie cugine, tenendo conto, oltretutto, delle ferite ancora aperte del terrorismo italiano, e che non può giustificarsi con la pretesa di possedere una sorta di esclusiva delle pur sacrosante ragioni umanitarie. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Vittorio Grevi, La Francia e il caso Petrella, una decisione che indigna, dal Corriere della Sera del 14 ottobre. Due giorni dopo, sempre dalle pagine del Corriere, Claudio Magris scrive una lettera aperta al Presidente del Consiglio per invitarlo a intervenire sul caso Petrella. Signor Presidente Berlusconi, non ho votato per lei né per la sua coalizione di governo, ma lei, eletto democraticamente a guidare il Paese, è chiamato a tutelare il bene e l'onore dell'Italia e di tutti i suoi cittadini. Le chiedo pertanto di esigere dal Presidente Sarkozy le formali scuse per lo schiaffo e l'offesa da lui arrecati all'Italia, con le motivazioni addotte per negare l'estradizione di Marina Petrella, terrorista condannata in Italia per omicidio plurimo e latitante all'estero, in Francia. Il Presidente Sarkozy ha invocato le precarie condizioni di salute della signora Petrella e certo chiunque, incensurato o colpevole di reati anche gravissimi, ha pieno diritto a essere curato al pari di ogni altro cittadino, perché nessuno, anche se autore di crimini, perde la dignità umana e i suoi diritti fondamentali. Come ha osservato Sabina Rossa, figlia dell'operaio Guido Rossa, assassinato nel 1979 come altri rappresentanti dell'Italia migliore, quella più aperta, democratica e progressista, dalle cosiddette Brigate Rosse, il presidente Sarkozy, negando con quei motivi l'estradizione, ha implicitamente proclamato che l'Italia non è uno Stato di diritto, bensì un paese barbarico in cui non si rispettano gli elementari diritti umani, non si curano i detenuti malati, o magari li si tortura come a Guantanamo, o li si giustizia come avviene ogni 3 giorni in Arabia Saudita. È un insulto al nostro paese, considerato incivile, incapace di amministrare la giustizia e tribalmente dedito solo alla vendetta. Ed è dunque un insulto, pure a chi lo governa. Non pretendo che lei sfidi a duello il presidente Sarkozy, come fece nel 1897 il conte di Torino, col principe Henri d'Orléans, il quale aveva vilipeso l'onore militare italiano e si prese una bella stoccata. Le chiedo tuttavia di reagire con fermezza e non con le sue abituali facezie. Come ha detto con esemplare magnanimità Sabina Rossa, nessuno chiede vendette, pene di morte, nemmeno ergastoli. Anche una grazia sarebbe pensabile, ma dovrebbe essere eventualmente concessa dal Presidente della Repubblica Italiana, del paese in cui è stato commesso il crimine e in cui è stata emessa la sentenza in nome del popolo italiano, e non dal Presidente della Francia o del Guatemala. Certo che lei non si dimostrerà timoroso. La ringrazio per l'attenzione. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Claudio Magris, Non siamo un paese di barbari, lettera aperta al Presidente del Consiglio, dal Corriere della Sera del 16 ottobre. Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, giornali e TV hanno annunciato con ampio risalto che a Roma e Milano le università erano state occupate dagli studenti che protestavano contro la riforma scolastica voluta dal ministro Gelmini. Eppure, era sufficiente passare una giornata in università per rendersi conto che non c'era stata nessuna occupazione, scrive Mario Ricciardi dalle pagine del Riformista. La notizia l'ho avuta ieri mattina dalla prima pagina del principale quotidiano nazionale. Sono partite le occupazioni a Roma e a Milano. La cosa mi incuriosisce. Nell'università lavoro da più di 10 anni, di cui una parte felicemente trascorsi proprio alla Statale di Milano, dove attualmente insegno teoria generale del diritto. Naturale dunque l'interesse. Oltretutto, nel pomeriggio avrei lezione. A giudicare da quel che leggo, c'è stata un'occupazione del rettorato lunedì, nel corso della quale un gruppo di studenti avrebbe tentato di ottenere dal rettore la firma di un documento che condanna la legge Gelmini. La minaccia è di quelle da far tremare i polsi a una persona che è responsabile di un ateneo frequentato da più di 60.000 iscritti. O firmi questa lettera o blocchiamo le lezioni. Nonostante il tono perentorio, il rettore Decleva non cede e rifiuta di firmare. Quel che segue non è molto chiaro. Secondo l'articolo, i dimostranti hanno occupato il rettorato, esposto uno striscione e improvvisato un corteo nei chiostri della statale. A questo punto devo confessare che ho cominciato ad avere qualche perplessità, non sulla veridicità del racconto, di cui non ho ragione di dubitare, ma sull'entità dell'episodio. L'altro ieri, infatti, ero anch'io in università e non mi sono accorto di nulla. Sono arrivato nel primo pomeriggio, mentre l'assalto al rettorato c'è stato alle 11. Tuttavia, l'atmosfera era quella di un giorno normale. Anche a lezione non ho notato nulla di insolito. Le stesse facce che vedo da qualche settimana. Nessuna protesta, nemmeno un'allusione all'occupazione. In effetti, secondo le cronache, gli occupanti sarebbero quasi un centinaio. Un altro quotidiano nazionale dice 70. Sul numero complessivo degli iscritti a questo Ateneo non si può certo dire che si tratti di una percentuale significativa. Oltretutto, i manifestanti sarebbero esponenti dei collettivi della Statale, della Bicocca, del Politecnico e dell'Accademia di Brera, che tradotto in cifre non equivale a una partecipazione di massa alla protesta. Comunque, rimane un problema. Non ho capito se il rettorato è occupato. Non mi rimane che andare a controllare di persona, anche perché nel pomeriggio avrei di nuovo lezione. Nella tarda mattinata di martedì, l'unico segno di qualcosa di diverso dal solito è la porta del rettorato chiusa. Chiedo al custode, che mi risponde che anche lui ha letto sul giornale che il rettorato è occupato, ma degli occupanti all'interno non c'è traccia. Interrogo i colleghi, chiedo a qualche studente, ma nessuno sembra essersi accorto di nulla. C'è qualcuno che è al corrente del malcontento per i provvedimenti del governo e, soprattutto tra docenti e ricercatori, manifesta apprensione. Ma del nuovo 68 di cui parlavano i giornali di ieri, nessuna traccia. Nemmeno la più piccola. La situazione si è rianimata soltanto nel pomeriggio, quando un gruppo non molto più numeroso di dimostranti ha stretto d'assedio il Senato accademico riunito in seduta, anche in questo caso chiedendo l'adesione a un documento contro gli ultimi provvedimenti del governo. Anche in questo caso, con scarsi risultati. La cronaca di questi primi due giorni del nuovo autunno caldo dell'Università Italiana, vista dal cortile della Statale di Milano, assomiglia a una fiction televisiva. Gli attori sono pochi, una gran parte recita male, i dialoghi sono prevedibili e mostrano, più di ogni altra cosa, che gli autori sono in una drammatica crisi di idee. Tutto questo mentre l'Università Italiana, come scrive Roberto Perotti nel suo saggio L'Università truccata, appena pubblicato da Einaudi, è alla deriva. L'analisi di Perotti, basata su una solida ricerca, mostra che una buona parte delle affermazioni fatte da chi ha inscenato le proteste di questi giorni è destituita di fondamento. Un confronto con quella britannica, anch'essa pubblica, mostra che il problema dell'Università Italiana non è tanto l'entità del finanziamento pubblico, che non è molto inferiore rispetto a quello erogato dal Regno Unito, quanto piuttosto la qualità della ricerca. Un risultato che non si spiega con uno scarso intervento pubblico, ma al contrario con un funzionamento distorto delle istituzioni che impediscono una reale competizione tra gli Atenei e di promuovere chi, ricercatori e docenti, lavora nel modo migliore. La ricetta proposta da Perotti non è più intervento pubblico, ma più autonomia. In particolare, più libertà da parte degli Atenei di fissare il prezzo dei propri servizi, facendone pagare i costi a chi dovrebbe trarne beneficio, ovvero gli stessi studenti. Solo in questo modo, sostiene l'economista Della Bocconi, è possibile creare le condizioni per un reale controllo della qualità. Saranno infatti gli stessi studenti e le loro famiglie che spesso li sovvenzionano a esigere che il titolo di studio abbia un valore reale, che si trasformi cioè in concrete opportunità di lavoro e non soltanto uno legale, come avviene in questo momento. Non è difficile immaginare che le tesi di Perotti sono destinate a essere impopolari in un paese che si è abituato a considerare il conseguimento della laurea un diritto umano fondamentale. Tuttavia, solo il superamento di questo pregiudizio potrebbe consentire di riprendere la discussione sull'università su nuove basi, per avvicinarsi a un sistema che coniughi, finalmente, l'efficienza e l'equità e non generi, come quello attuale, il massimo dell'inefficienza, rendendo al contempo quasi impossibile la mobilità sociale. In questi giorni si stanno levando grida di dolore da ogni parte del paese contro la norma che prevede la possibilità di trasformare le università in fondazioni. Anche il PD si è unito al coro delle proteste, dimenticando che la stessa proposta era stata presentata nella precedente legislatura da Nicola Rossi, senatore di quel partito. In realtà, come configurato nella proposta di Rossi, il cambiamento di regime giuridico era concepito come un'opportunità per le università, e ce ne sono, che sarebbero in grado di contare su un territorio in cui ci sono le risorse private su cui fare leva, approfittando delle possibilità che una regolamentazione più agile offre sul piano dello sviluppo. D'altro canto, è difficile immaginare che questa opportunità sia alla portata di tutte le università italiane, nonostante quel che sembra pensare il ministro Gelmini. Rimane allora da chiedersi cosa dovrebbe fare chi non è in condizione di fare il salto verso una gestione privatistica. Chiudere? Continuare a fare affidamento esclusivamente sul finanziamento pubblico? Ripartito in che modo? L'opposizione, senza se e senza ma, che si annuncia nel cortile della Statale di Milano in questi giorni, non risponde a queste domande. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Ricciardi, Cronaca di un'occupazione che non c'è. Dal Riformista del 15 ottobre.